5 conduttori, ti lui metto vale tra i conduttori, ma mettili dove vuoi, ma io ti metto tra i conduttori, sì. È conduttore, conducente, ma è più conduttore di me, ci sono 4 conduttori. No, il conduttore, se si misura il successo dai conduttori deve essere molto contento, perché ormai è successo farmi intervistare tanta gente contemporaneamente. Esatto. Ma il conducente del 27 è diventato biondo o eri sempre biondo anche le altre volte? No, no, sono diventato per le feste, di solito lo faccio. Wow, fantastico. Ti decori. Lo devo fare anch'io adesso, domani mi faccio biondo anch'io. Sei fuori tempo massimo, sai? Sì. Silente. Via, via, via, subito, subito. Silente. Sono fuori tempo massimo. Ma no, l'ultimo giorno. Allora, Chiara, siccome tu hai invitato Pierluigi Vannozzi, tu devi raccontarci tutto di Pierluigi Vannozzi. No, io chi adesso è Pierluigi Vannozzi? Questo lo dice Pierluigi Vannozzi. Questa era la prima domanda che dovevo fare io, sinceramente me l'hai rubata. Ah, per telepatia. Beh, potremmo chiederlo a Giancarlo Norese, che è qui in maniera anonima. Un osservatore. Un osservatore. Ascoltatore silente, quindi non ci risponderà, okay. Benché sia ubriaco, ce l'ha confessato. Quindi potrebbe in vino verde. Ma perché sei andato alla C8 oggi? È silente. Ah, è silente. Mi ero già dimenticato che era silente. È veramente il partecipante. E comunque abbiamo Cinzia alla regia stasera, per cui attenzione a quello che dite. E un'altra cosa volevo dire: non scrivete né mandate vocali al 333 180 94 94 perché oggi non funziona. No, sarà la sera in cui tutti. Qua dovresti mettere qua. Ah, sì, adesso lo metto. Ah, sì, però puoi mettere quello. Che potrebbe. Questo qua. Ci mettiamo due. No, questo è buio. Non è proprio. Sembra un videogioco, però wow. Wow. Excitement unlocked. Geniale. Wow. Apprezziamo. Wow. Holy shit, that rocked. Ecco, questa diciamo che esatto, partiamo con l'intervista. Era per Luigi, Pierluigi Vannozzi, questo era l'excitement on board per la tua presenza qui. E intanto ti abbiamo nel nostro cazzeggio quotidiano lasciato il tempo di pensare a rispondere chi sei. Non lo so, delle volte sono ancora alla ricerca di sapere chi sono in realtà. Speravo che tu, dopo la visita dello studio che hai fatto, avessi messo in piedi, se mi deleghi, incontro un sacco di domande da farmi, di curiosità da soddisfare, di spiegazioni sul mio lavoro. Comunque, visto che devo dirlo io... Lo dici tu. Allora, che niente, io faccio... Poi se mai io confermo oppure ti smentisco. Smentiscimi. Diciamo che se partiamo da molto tempo fa, dal secolo scorso, quindi partiamo da metà del secolo scorso, mi occupo di arte in generale, faccio mostre, faccio cose, come direbbe qualcun altro, mi occupo, sono partito, ho fatto un piccolo percorso in sintesi così, sono partito dalla pittura informale, perché da giovani tutti a Bologna abbiamo dipinto e tutti siamo partiti dall'informale, anni 60, assolutamente pittura. Poi improvvisamente la prima tecnologia che ho incontrato mi ha fatto tornare un pochino con il ritorno all'ordine, perché bisognava rispettare alcune regole, bisognava utilizzare la tecnologia in un modo un pochino più preciso, quindi ho fatto mostre all'inizio in collettive abbastanza interessanti e importanti con un critico e un matematico molto rigoroso, Bruno D'Amore, che mi ha presentato ancora a Roma un De Matematica, una mostra molto importante con un sacco di persone e di artisti molto importanti. Poi niente, ho continuato a fare la mia pittura, ho continuato a lavorare nel mio studio credendo di scoprire il mondo, e il mondo l'ho scoperto in quegli anni, lì alla fine degli anni 60, primi 70, con la fotocopiatrice. Sono riuscito a lavorare con una fotocopiatrice che era a bagno liquido, quindi sostituiva molto la camera scura che non avevo più. E si facevano le fotocopie su una macchina che ti ho mostrato in quella, studio. No, infatti stavo appunto per interromperti e chiederti se era quella mese molto interessante. Mi ha consentito di fare una serie di lavori molto divertenti e carini, perché effettivamente la ripresa veniva fatta in maniera molto analogica da uno strumento, come dire, molto, adesso antiquatissimo, ma da museo molto bello. Si producevano delle immagini molto particolari. E soprattutto con la fotocopiatrice ho cominciato a muovere un po' le mani, gli oggetti, le cose, quindi ho scoperto un piccolo mondo che potevo ricreare attraverso la tecnologia. quando ho messo insieme un portfolio molto importante di queste cose, ho cominciato a girare per le gallerie per cercare di offrirla, perché bisognava pur fare qualche mostra. E sono capitato alla Sincrona a Brescia, che è una galleria negli anni 70 molto importante. Il direttore è molto carino, mi ha ascoltato, ha guardato tutto, ha detto bene, bravo, mi piacciono molto. Dice, tu conosci Bruno Munari? Sì, il nome, ma non lo so. Allora dice, devi conoscerlo assolutamente. E ha tirato fuori da dietro a un tavolo un pacco di fotocopie alto 50 centimetri. Aveva già fatto tutto Munari all'inizio. E quindi quasi, a quel punto è stato un momento tragico. Che dice, ma le mie sono diverse. Ho detto, no, no, tutti hai retto il gioco. C'era il pennello, però i risultati erano diversi. Così bisogna però fare. Io ho telefonato a Bruno Munari, che ha detto, no, vieni pure. E quindi sono andato da lui, siamo diventati quasi amici, mi ha pubblicato i lavori su un libro molto carino, xerografie originali, con i primi lavori a colori in fotocopia, e è cominciata una collaborazione importante, interessante, ed è stato l'inizio di una cosa che per anni ha girato in maniera molto interessante un po' in tutto il mondo, che era il fenomeno della copy art, perché come diceva lui, insomma, si poteva, inizialmente diceva facciamo l'arte per tutti, l'arte di tutti, in realtà poi sapevamo tutti che non era vero, però la base era veramente, cioè aveva soltanto un piccolissimo scatto che bisognava fare, che lui aveva avuto, e quando faceva il testimonial per la Xerox negli anni 60 all'inizio, mi diceva, quando io vado in giro anche in Giappone, in Cina, per proporre queste cose, faccio una cosa molto semplice, su un foglio di carta traccio alcune righe, le metto sul piatto della fotocopiatrice, spingo il tasto e quello che esce è una fotocopia. Poi lo rimetto sul piatto, quando scatto muovo sul piatto il foglio con le righe e quella che esce è un lavoro originale, irripetibile, unico. Da lì veramente si può capire come, lavorando sul piatto di una fotocopiatrice che aveva dei limiti operativi ovviamente, perché lo spazio era solo una 4, perché era bianco e nero, tutte queste cose, però veramente si cominciavano a creare un sacco di cose interessanti, e da lì, voglio dire, sono partite tante cose, tante mostre organizzate da me e da alcuni amici, con i quali poi ho fondato un gruppo che si chiamava Post Macchina, nel quale cercavamo di sottolineare solo il discorso più importante, cioè quello che rimaneva dopo la progettazione di qualche lavoro e l'uso utilizzo di una tecnologia. Quello che doveva rimanere ovviamente non tanto quel singolo oggetto riprodotto, ma tutto un discorso che andava ben oltre. E abbiamo organizzato questa mostra molto importante la prima volta al Centro Mascar 1984, al Centro Mascarella Arte e Ricerca, e lì per la prima volta in uno spazio privato molto grosso abbiamo messo insieme a confronto tecnologie diverse, fotografia, copy art, video e suono, ed è stata una roba molto molto interessante, ha avuto un sacco di riscontro, abbiamo chiesto in quel momento collaborazione critica alla critica più interessante di quei tempi, quindi a parte Bruno Munari per la copy art, però da Roberta Valtorta per la fotografia, Tommaso Trini per il video, quindi veramente abbiamo messo insieme un gruppo di lavoro con un portato critico molto molto importante. Devo dire che dopo Post Macchina è diventato il nostro brand, il nostro marchio, quindi con quello e con gli amici che si erano aggiunti a noi, i primi tre, eravamo io, Mauro Trebbi e Michele Sicurtà si occupava di cinema, ma potrebbe un fotografo puro, io dalla pittura alla copia, quindi erano... Potremmo chiamarli tutti in radio? Ma non credo, no. Perché Sicurtà abbiamo perso dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, non sappiamo più che terre batte, è difficilissimo. Mauro Trebbi era in studio disperso anche qualche giorno fa, ma ha deciso, ha detto la fotografia mi ha già dato tanto, basta, non speriamo, faccio più niente, lo voglio sapere. Però... si può parlare di queste, ci sono comunque un sacco di altri amici che sono come dire, post-macchinisti che si sono aggiunti dopo e che sono tuttora molto attivi, ognuno nel suo settore, perché poi come succede nelle dinamiche dei gruppi, ognuno poi si sceglie un percorso che è quello che gli è più consapevole, quindi chi fa fotografia, chi ha fatto video, chi fa, ha continuato con la copia, chi fa un altro lavoro, magari creativo di altro tipo, però ci siamo, quindi... Però vuol dire, io in quel momento lì abbiamo, in quegli anni lì abbiamo ovviamente visto quali erano le possibilità creative, le possibilità di applicazione di questo tipo di lavoro, e quindi da lì è stato importante capire la pubblicità, capire la grafica, capire la moda. E devo dire che una delle, abbiamo lavorato e lavorato tanto anche con Gianni Castagnoli, che lavorava molto per nella moda e a tutto tondo, e che è riuscito tra i primi in Italia a pubblicare a Vogue per la prima volta dei lavori fatti in fotocopie, ridipinti o ricontrollati da lui senza il modello all'interno. Fino a quegli anni tutte queste riviste pubblicavano sempre i modelli, cioè, con interno, dire il fotomodello, un proprio modello con all'interno, i vestiti, vestiti, bisognava proporre che fosse una cintura, una borsa, un, ci voleva, un abito, ci voleva un modello che la indossasse. Lui per la prima volta, dopo grosse liti o discussioni, era riuscito a far pubblicare, ci sono, noi abbiamo ovviamente nel mio archivio un sacco di questa documentazione, però per la prima volta dei lavori fatti in copie e senza modello, quindi si pubblicizzava proprio solo e progetto sappiamo, da vendere. Cioè, tu, naturalmente dandoti il tempo di rintracciare, potresti dirci esattamente quale numero di Vogue, se ce qualcuno volesse, proprio il fanatico la prossima volta andiamo tutti in studio da me per l'archivio, quello che ha intravisto, esatto, vuol dire molto, e lo troviamo. Però abbiamo, a parte questo, poi è cresciuta molto questa cosa, io ho invitato a Bologna tantissime persone che lavoravano con la fotocopiatrice nella maniera più disparata, perché quelli che ho invitato poi la usavano come base per scrivere degli storyboard, per raccontare delle cose, quindi era un modo di per utilizzare uno strumento molto molto creativo e molto anche pratico. Quindi allo Spazio Navile, che era una delle gallerie stamperie più importanti a Bologna e poi non solo a Bologna, con Giancarlo Salvadori che era il direttore, abbiamo fatto delle cartelle, abbiamo fatto molte mostre, e ho invitato gente che in quegli anni era già conosciuta, ma ancora i primordi, che utilizzava la fotocopiatrice, e quindi Stefano Tamburini, che stava lavorando con Frigidaire delle controcopertina, che ha rielaborato Snake Agent, quel fumetto meraviglioso americano degli anni 40, disegnando tutte le storie, muovendo sul piatto della fotocopiatrice le auto, chi scazzottava i poliziotti, cioè veramente interessante. Momenti di grande sperimentazione. Vi abbiamo segato, scusate. No, è che se no bisognava spegnere. Early. Something disturbed my sleep. Out through an open window came this simple melody. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. And screaming cars. A tiny sound my attention caught. Out from a crowded bar, I heard somebody whistle. to stop and listen. I heard somebody whistle. I had to stop and listen. Try to sit and compose. It happened just the other day. When through the open balcony door, I was transported away. Tutto. Un gran pezzo. Intanto siamo ringrazio tornati. Angela che me l'ha fatto sentire, adesso lo ascolto tutti i giorni. Scusate che vi ho Non vi avviso, né in entrata né in uscita. Fanno così anche alla Rai 3 ogni tanto, esatto. Qualcosa, quindi va benissimo. Esatto. Arriva la mannaia. Arriva la mannaia. È il famoso mannaia. Bello della diretta, il reality. Tanto per parlare un po' con frasi fatte. Comunque, intanto era JJ Johansson nel caso me lo stesse chiedendo. Eravamo arrivati ai vari post macchina e vari lavori. Dove siamo arrivati? No, perché siamo poi loro hanno, naturalmente hanno continuato a raccontare la storia. E si è intromessa c'è un salto. La conduttrice che ha scoperto delle cose pazzesche. Che adesso Io per esempio ho scoperto che Pierluigi è nato a Porretta Terme. Dove c'è il famoso tortino. Dove c'è il famoso tortino Porretta. Io ho conosciuto i corsini che cugini, fratelli. Mi dicono che sta per chiudere la fabbrica di tortini Porretta. Ma è sempre così. Ma tanto continuerà con un altro brand da qualche altra parte, sempre quel tortino. Anche perché è così buono che non io sono campato 10 anni con i tortini di la carota. Non può smettere, è come le Polaroid, capito? Cioè, hanno tentato di smettere le Polaroid, ma non ci sono riusciti. Non ci sono riusciti, però sono riusciti a farle così. A farle così lente che non si. Non sono più la stessa cosa. Ma è incredibile, comunque, che con tutta la tecnologia che abbiamo non siano riusciti a rifare le Polaroid come erano negli anni 80, che in 3 minuti si come sempre il manico che non funziona, perché Fuji continua a farle, ha continuato a farle, funziona perfettamente da sempre e non c'è nessun problema. Lì quando hanno venduto tutto, perché è fallita la Polaroid, hanno venduto all'Impossible, a parte il brand, hanno venduto tutta tecnologia e sembrava che funzionasse tutto come prima, invece niente, qualcosa è andato storto, non sono stati capaci di farlo. Io penso che il problema vero fosse sia legato alla chimica, perché sai com'è? Probabilmente al fatto che la chimica originale era super tossica e adesso non si può riprodurre, cromati, morbidati, tutti i pigmenti molto cancerogeni, quindi hanno dovuto sostituirli con pigmenti organici che arrivavano dalla Cina i primi, e devo dire che non resistono alla luce, non resistono, sono molto sensibili. Però se però ci riesce la Fuji in qualche modo sì, non si capisce, ma è la stessa storia che diciamo quando compriamo in Europa i prodotti che sono chimicamente modificati, gli OGM, da qualche parte la legge consente di fare delle cose che da noi invece non le fa fare, molto restrittiva, quindi chi se ne sbatte lo fa. Per esempio c'è un liquido per trasferire le fotocopie a colori americano che qua in Europa non si può comprare in America, si può far avere dall'America dall'America e scusa, te lo spediscono qua? Dall'America te lo spediscono qua, perché quando arrivi in dogana e quando arrivi in dogana ti cacciano in galera. Esatto, quando arrivi in dogana se lo bevono e muoiono. I bei tempi di una volta. Che tristezza. Quando la trielina funzionava ancora, con le fotocopie si facevano dei capolavori, adesso non si possono più fare. Beh, adesso pensiamo anche a Rauschenberg e a tutti quelli che ci hanno in qualche modo. Ma anche Pasquini, perché Pasquini. Il nostro Rauschenberg. È la prova provata. Hai capito, Pasquini? Ti sei guadagnato stasera così senza aspettarti. No, infatti. Sai com'è? Noi artisti affermati. Anche io avevo giocato con il mercurio del termometro, che non passi che vada molto bene, però. No, quello... vabbè, sì, no, ma anche quello è stato. Basta ritirato. Non berlo, basta non berlo. Per Chiara, ma immagine. Tu hai così freddo da tenere il piumino? Io ho così freddo da tenere il piumino, okay, e la Giulia Quadrelli accanto a me può testimoniare che ho delle falangi blu. Ma perché c'è un microclima diverso, di qua fa più caldo e cambia, esatto. No, no, ma quindi... io sto benissimo, è lei che è proprio falange blu. Io falange blu. Deve no, essere una... qualche sostanza chimica. Arrivata da la prossima volta proviamo con la putanzione, vediamo di tagliare. Non puoi continuare perché sì. No, ma sono quelle falangi lì che non vanno sono bene le tagliare. È la falange, è la classica falange da latte, poi ti ricresce. È la falange armata. Io sono stata declassata da co nutrice a massaggiatrice. Esatto. Falange, esatto. I conduttori. Comunque il suo percorso. Comunque dunque, certo. No, mancano 2 minuti alla pubblicità, per cui o dite qualcosa che dura 2 minuti. Sensato. Allora diciamo che esaurita la spinta della fotocopia, niente, così nel 96 ho deciso di smettere perché invece che essere analogico il lavoro era diventato quasi digitale, perché Canon ha prodotto una macchina molto più interessante, però ha aggiunto un pigmento agli tracker fondamentali, quindi alla fine è diventato un gioco quasi digitale, non mi divertivo più e abbiamo interrotto la continuazione, che continuerà dopo anche nel racconto. Sono state le Polaroid, che io facevo già da tanto tempo, ma siccome con la fotocopiatrice la cosa divertente era vedere i risultati immediatamente, poter cambiare, inserire, interagire, verificare, continuamente, vedere i risultati subito, con la Polaroid il discorso era lo stesso, cioè la Polaroid mi dava dei risultati immediati, quindi potevo modificare, cambiare le prospettive, cambiare le architetture, cambiare i colori, incidendole, andando all'interno della cosa. Io, mentre la Polaroid si sviluppava, in quei 30-40 secondi ho sempre ridisegnato quello che stavo fotografando e ho modificato continuamente l'immagine, perché la macchina mi dava sì un risultato, ma era molto più freddo rispetto a quello che io mi aspettavo rispetto alla foto, cioè la situazione, il contesto, l'emozione del soggetto. Quindi la macchina mi restituiva molte cose, ma non tutto quello che volevo. Ecco perché ho cominciato a inciderle, ad aprirle e a creare un mondo totalmente parallelo a quello che la macchina mi proponeva, che era quello della mia fotografia. Che si potrebbe dire che si vede cosa c'è dietro o dentro a una, sì, Polaroid. Io devo dire che è l'ultimo progetto al quale sto lavorando e che sto preparando un po', magari ne parliamo dopo con calma, è proprio sì, l'evoluzione di questo tipo di attività. Io le sto chiamando Sinopie, perché in effetti, incidendo e lavorando sulla fotocopia, sulla Polaroid mentre si sviluppa, inevitabilmente contamini e distruggi in parte il positivo che si sta sviluppando, i pigmenti all'interno si organizzano per riprodurre l'immagine che hanno visto, ma che non è la tua. Ne parliamo tra poco, facciamo spot, parliamo fra poco. Abbiamo qua i tempi. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma. Per voi sì, è su sì, è una trasmissione di Sinza. Bellissimo. Chiara, vuoi partire? Bentornati. Siamo tornati. Sì. Stavamo parlando di come del look di Pierluigi Vannozzi e io ho proprio chiesto uno spazio apposta, ho chiesto l'autorizzazione. Menzione d'onore perché il nostro ospite stasera ha la cravatta, è signorile, no. Molto signorile, molto belli anche gli occhiali, ha un look veramente, cioè, cioè, diciamolo agli ospiti, diciamo, che verranno, ospiti, cioè quando sì, venite, siete chiamati a coxo spaziale, mettetevi, si prega di mettersi la cravatta. Diciamolo anche agli ospiti passati, esatto, eravate vestiti malissimo. È vero. Direi dress code obbligatorio. No? Sì. Gli occhiali è un problema un po' più delicato, perché ho gli occhiali carini, nuovi, perché gli altri mi ci sono seduto sopra e li ho trasformati in una piadina. Oh. E allora non si raddrizzano più. È un allora sistema questo per cambiare gli occhiali. Gli occhiali. Io che sono un occhialomane, se uno vuole mettere gli occhiali per venire qua per le interviste, deve sedersi sui suoi sopra. Prima, farne un paio nuovi, allora si può fare. Sono deliziosi. Comincia a essere complicato diventare ospiti di corso spaziale. Anche costoso. Fra l'altro non abbiamo ancora l'ospite del 5 gennaio, per cui se state ascoltando e volete venire ospiti al 5 gennaio e avete una cravatta e degli occhiali schiacciati, potete venire. Avete ancora un po' di tempo. Se uno si siede sopra la cravatta, dopo gli tocca di comprare degli occhiali nuovi. La cravatta da mettere non è vero. Adesso dico queste cose per chi guarderà domani le foto, stasera o in diretta le foto che noi postiamo con tutti quanti noi. Cioè, un mio amico, quando ha visto questi occhiali, mi ha chiesto se li avevo aggiustati con lo scotch. L'effetto scotch. E tu hai detto sì, certo, scotch colorato. Ovviamente. Per chi guarda le foto dovrà capire chi di noi è per Luigi, no? Chi di noi è la cravatta. Si capirà che non sono. Dov'è che ne hai aggiustati con lo scotch? Ah, lì. Oui. Okay. Sì. È un'amicizia finita. Ma no, continua, è un'amicizia che continua a dispetto delle previsioni. Anzi, facciamo così, salutiamo in diretta Federico Pagliarini. Abbiamo dei saluti. Abbiamo dei saluti, anche perché non possono e poi non possono noi non abbiamo, però noi non, ma adesso lui non ci ascolta neanche, non lo saprà mai. Ma noi non abbiamo l'angolo della menzione. No, non abbiamo neanche i saluti di Marco Roma o quelli non abbiamo neanche i saluti di Marco Roma. Però oggi, questa sera ci sta ascoltando Giancarlo Norese. Questo è una novità, e questo è un valore aggiunto. È un valore aggiunto. Torniamo sull'intervista. Torniamo sull'intervista che è meglio. Devo dire che Luigi Vannozzi ha anche portato gli appunti, cosa che ho visto fare solo a un altro ospite che nella vita. Senza cravatta o con la cravatta? Senza cravatta. Sai che me lo ricordo. Mi ricordo oggi pomeriggio ero in un incontro per un'altra roba con un ricercatore, un neuroscienziato che si occupa proprio di memoria, e io adesso mi ricordo questa cosa degli appunti, ma non mi ricordo chi era. Però forse ricercatore. Secondo me allora era negli di, appunti era chi quello era? Di era quello di quello della Certosa che parlava dei cose era... della è stato anche Radio 3 l'altra sera, l'ho sentito, esatto. Perché sta curando lui. La menzioniamo, sta curando uno spettacolo, però non sono tanto preparata, non mi puoi facciamo una ricerca parla allora. Ancora un po' Pierluigi Vannozzi allora, che non andiamo a cercare il suo corso a Blogspot. Visto che ho gli appunti, allora dico due cose che ho saltato, perché sono stato devo dirvi che nella prima pagina degli appunti c'è scritto Vannozzi Pierluigi. Il percorso in sintesi perché sintesi. L'ho spedito via mail ad alcune persone, stavi per dire via fax alla combo cravatta e appunti. Esatto. Allora lavori in corso nella pagina successiva, era quello che stavo cominciando. Stavamo parlando di Enrico Tabellini. Torniamo indietro. Enrico Tabellini. Di pubblicamente cultura. Esatto. Torniamo indietro un attimo perché per la coppia non c'è solo Bruno Munari, ovviamente, che ho citato prima, però e con il gruppo abbiamo avuto un sacco di esperienza anche all'estero, e ci siamo messi in contatto con gli Stati Uniti, con Liz Nederland a New York, con la Sarah Jackson in Canada. Erano tutte persone che avevano le prime cattedre dove si parlava davvero di questo tipo di applicazione tecnologicamente di cose. E devo dire che abbiamo fatto in Galleria d'Arte Moderna a Bologna una bellissima mostra che si chiamava Xerography nell'86, e avevamo invitato tutti gli artisti americani, che abbiamo esposto un catalogo molto bello, in un qualche modo sponsorizzati da Lusis, che era l'ufficio americano dell'arte, che si occupava di arte, della promozione dell'arte nei vari paesi. Poi tante altre cose. Un'altra cosa molto importante, che molto importante almeno per il percorso prima di arrivare alle Polaroid, anche se le facevo già, è stata la parte video, cioè in postmacchina. Con postmacchina abbiamo realizzato una cosa molto molto interessante, che era per il suono una performance fatta da un musicista, Cialdo Cappelli, che ha riproposto una performance fatta da su musiche di Satie. Quindi era un piccolissimo brano di Satie che viene ripetuto 840 volte, e che nella ripetizione 840 volte, cioè non per ripetuta, no, 840 volte, e dura più o meno l'esecuzione di questa cosa dei pianisti 24 ore. Noi abbiamo creato nella galleria del Centro Mascarella, sui tre livelli, abbiamo messo degli altoparlanti, delle fotocellule, perché era registrato ovviamente questa cosa, e questo è il passaggio delle persone che venivano in visita alla mostra, girando, acceleravano o rallentavano la durata di questo nastro. Quindi abbiamo passato tutto il giorno e la notte in galleria, ci siamo divertiti molto, siamo riusciti a chiuderla invece in 24 ore, in 18 ore, abbiamo fatto colazione in galleria, ma è una cosa molto bella, perché l'unico, cioè, di cui sono a conoscenza, che avete chiuso in 18 ore invece che 24, perché c'era venuta moltissima gente, e quindi accelerava, hai capito? Mentre invece John Cage, l'uno e l'altro, è l'unico che ha fatto questa cosa di cui sono a conoscenza a New York, invece lui aveva trovato proprio una serie di pianisti veri, di musicisti sul serio, che live suonava questa cosa in uno spazio bellissimo. Noi a Bologna in Italia non siamo riusciti a fare la stessa cosa, però ha funzionato davvero molto bene. E io, nell'occasione del 2018, della riproposizione di Post Machine 2018 per l'80° anniversario della fotocopiatrice, ho riprodotto in una galleria alla B4 la Post Macchina di allora, d'accordo con gli altri che in Europa stavano facendo queste cose, compresi e io avevo nella mia collezione quasi tutti i lavori originali esposti in quell'occasione, li abbiamo riproposti, e io per l'occasione avevo messo un QR code per poter riascoltare la musica di Satie, che andava e va bene, ma ho fatto 840 fotocopie dello spartito che veniva riproposto, numerate e firmate, poi ai visitatori regalavo questa cosa come gadget per la mostra. Bellissimo. Quindi una roba che è durata, nonostante avessi interrotto il discorso fotocopie, per durata per un pezzo, ma anche con Disca, la società americana che si occupava di questa cosa, è stata una bellissima collaborazione. Fine di questa roba, parliamo invece del video, perché da Post Macchina ha dato origine, appunto, da un lato al discorso, all'allargamento alla moda, alla pubblicità, tutta una serie di cose che magari quando ci vedremo un'altra volta in studio, non in radio ma in video, possiamo farle vedere. Perché la puntata video non l'abbiamo vista neanche noi. A breve. Necessita per la cravatta. Abbiamo girato alcuni video, uno molto importante con l'RKO di Ravenna con Franco Masotti, e High Tech Fresco. Siamo andati in una galleria che il nostro osservatore conosce molto bene, lo studio Leonardi a Genova. Abbiamo fatto delle riprese nello studio del soffitto secentesco affrescato, molto bello. È stato creato un video su questo lavoro, e poi avevamo creato un piccolo video wall contro una parete dove il video andava incrociato con una musica che avevamo scelto ad hoc, e quindi contemporaneamente avevamo durante la mostra l'originale affrescato sul soffitto, il light tech fresco, che era questo video, questa realizzazione tecnologicamente un affresco, vuol dire virtuale, ma era video, e poi alle pareti stampate, come se fosse stata una sala degli specchi, le fotocopie di molti degli screenshot che facevamo del video mentre andava. Quindi era un entrare all'interno di uno spazio molto molto particolare, dove si poteva su tre livelli godere di questa produzione video che è stata molto importante. Nelle altre gallerie l'abbiamo riproposta, ovviamente non c'era l'affresco sul soffitto, quindi proiettavamo le diapositive, avevamo fatto una serie di diapositive di queste cose, proiettavamo sul soffitto i vari le diapositive di questi affreschi, e la parte di sotto invece era ancora quella, il video andava e le fotocopie c'erano. Io avrei una domanda specifica che l'altro giorno non ti ho fatto. Adesso te la faccio così a bruciapelo e magari pesto una di quelle che non so. Adesso mi riservo di rispondere. Se no, oppure se sentite del rumore, è un clang che arriva direttamente in testa alla faccio partire gli spot. Preparati con qualcosa di emergenza. Domanda non concordata. No, volevo sapere se in questo iter hai avuto a che fare con Franco Vaccari. Sì, no, ma molto all'inizio, cioè, molto all'inizio. Quando sono partito, perché prima all'inizio degli anni 60 si facevano le mostre collettive, le prime proposte così, però io in studio te l'ho fatto, forse l'hai visto, un manifesto ancora molto, molto carino, che è una foto di Nino Migliori della, così, della porta della Galleria 2000, galleria molto importante a Bologna dove sono passati tutti ed era la galleria più importante per l'avanguardia, e ci sono una serie di nomi, molti, ci sono anch'io, in fondo in ordine alfabetico, ma c'era Vaccari, Ontani, non so, Zucchini, tutti quelli che effettivamente Bottarelli. Quindi io sono molto orgoglioso di questa cosa, di quest'altro. Certo. Però voglio dire, ci siamo conosciuti in quei momenti lì, poi nel 72 lui ha fatto la biennale che lo ha lanciato in una maniera strepitosa, e poi ci siamo rivisti, ci siamo incontrati, ma non abbiamo collaborato in maniera costruttiva, cioè lui faceva il suo percorso molto fotografico, poi lui è un filosofo, un scrittore, insomma veramente uno scienziato, un fisico filosofo. E io invece mi arrabattavo e ho continuato a farlo tra fotografia, fotocopia e anche ovviamente fotografia, perché nel frattempo facevo anche fotografia, ho conosciuto, io giro molto musei, gallerie, sono sempre, e comunque e cerco anche di stare molto attento a quello che succede in giro, perché è importante per avere sollecitazioni. Io in effetti, conosciuto anche io te Norese ci vediamo a quasi ogni inaugurazione, e quindi ho conosciuto dei ragazzi giovani, molto, dei fotografi molto bravi, quelli che avevano già fondato un gruppo che si chiama AIFAN, Associazione Italiana Fotografia Analogica, e abbiamo fatto diverse mostre insieme, pubblicazioni e libri interessanti, insomma abbiamo cercato di promuovere la fotografia, ognuno ovviamente con il suo taglio, ma cercando di far funzionare il gruppo come avevamo già fatto con Post Macchina, questa volta con una tecnologia un pochino più avanzata e molto più flessibile come quella della macchina fotografica. Poi, come succede sempre, le dinamiche dei gruppi sono le solite, bene, dopo un po' ci si perde, ognuno prende, però ci vediamo ancora. Il gruppo proteiforme per la tua. Però devo dire che è stato eravamo anche molto ambiziosi, perché ci chiamavamo Associazione Italiana Fotografia Analogica come se fossimo solo noi in Italia, in realtà eravamo una decina, Angelo Scelfo, quello che era fondato, era continua quella fotografia, però si è, negli ultimi vlog si è stancata, ha detto basta, bisogna chiedere troppi permessi, adesso mi torno a dipingere, quindi cerchiamo di continuare tutti. Ma io oltre a salutare Mia che stasera ci sta ascoltando, per cui ciao Mia, ciao Mia, volevo salutare anche il Piccio che una volta è venuto qua e mi ha portato la meravigliosa Serena Abrami, e lui è un manager musicale che mi ha spedito un pezzo chiamato non mi ricordo come si chiama, però però te l'ha spedito, me l'ha spedito, è un omaggio alle orme di Martelli e Ruben Camillas, e allora volevo farvelo sentire visto che è uscito da poco, così io intanto mi tolgo la giacca, è un anagramma, stai acclimatando. Fuorionda fotografico. Questi effetti e Grace Jones e la Jane, questi dire che questa è un'evoluzione che ci ha fatto vedere in studio di uno dei costumi di Jane e Tarzan, dove il costume era davvero un costume da bagno, da piscina, e Grace Jones era ovviamente quella modella che tutti conosciamo. Però era interessante questa cosa, vedere quello che succedeva quando elaboravo la foto con il Polaroid e quindi la stavo incidendo, mentre si staccava il positivo manipolando, rimaneva in fondo, che era quello che poi ho proposto nelle varie mostre di cui non riusciremo a parlare, ma che sono state molto importanti negli ultimi 10 anni, e che adesso sto recuperando come Sinocchia. Quindi il progetto adesso, Memoria e Sinocchia, perché la memoria e il progetto è quella che scaturisce dall'analisi di questi fondi, di questi progetti, come li avevo elaborati in quegli anni, che sono la natura morta, lo studio del pittore, il museo, tutti i vari progetti. E allora ho cominciato a dare in pasto all'intelligenza artificiale queste sinopie per vedere che cosa riusciva a costruire della foto originale, quella che io invece ho cancellato ridisegnandola. Risultati negativi totali, non faceva niente, quindi sto punti a sfavore dell'intelligenza artificiale. No, almeno per come la stavo usando io, assolutamente negativo. Beh, la usi nel modo giusto, deve essere così. Però adesso invece sto ricreando da queste sinopie, sto recuperando il progetto che le aveva generate e sto facendo le foto, tenendole in positivo, quelle che potevano essere le foto vere, che sono state manipolate e cancellate durante la lavorazione. E quindi adesso sto preparando questa mostra con delle foto che sono delle fake foto rispetto a quello che propongo come partenza, ma che sono l'evoluzione, quindi la proiezione di queste sinopie. L'intelligenza artificiale, la prima cosa che mi ha detto quando l'ho interrogata, perché sembra una signorina seria quella che c'è dall'altra parte, invece, certo, mi ha detto: guarda, che le sinopie non esistono in fotografia. Me l'ha proprio detto con voce suadente, anche voce suadente. Ho detto: sì, lo so, però io le voglio chiamare sinopie. E andiamo avanti così. Ha detto: posso fare qualche cosa che assomiglia a qualche cosa per la quale ho la traccia nella immagine che mi stai proponendo. Ci sono alcuni segni, alcune cose che potrei rielaborare. Ti propongo qualcosa che secondo me potrebbe essere l'evoluzione. E cosa ti ho proposto? Delle robe, delle cose improponibili. E quindi un mio autoritratto in piedi che avevo elaborato da un quadro del 500. Quindi 4 meno. No, ma perché è colpa mia, perché loro, lei è molto brava e molto veloce a fare risultati, certo, però ero diventato una statua greca, in un curosso ero diventato invece che essere un guerriero del 500, effettivamente non ci capivamo granché, e da una roba come praticamente cancellata, dove non c'era rimasta quasi nessuna immagine nella Polaroid, mi ha elaborato una signorina, un busto di una signorina con un viso bellissimo, perché secondo l'intelligenza artificiale quel po' di colore che c'era e alcune tracce poteva far pensare che l'originale che avevo fotografato fosse una signorina che mi ha proposto, non era quella, ma una signorina. Diciamo, non era vero niente, perché io va troppo veloce, la mia maestra quando ero piccola diceva: presto e bene non conviene. Sì. Comunque vuol dire è un progetto molto intrigante che mi piace. Bene, non stanno insieme, ma è la stessa cosa. Ognuno aveva la sua versione, sai, io ho studiato a Modena. Comunque è un progetto comunque al quale tengo molto, perché recupera una parte di lavoro precedente che è stato molto importante per me, perché è alla base di tutta una serie di programmi e di mostre che ho fatto, e poi mi consente di utilizzare, partendo da lì, di nuovo la macchina fotografica per fare davvero questa volta delle fotografie, e quindi cercando davvero di inventare qualche cosa che abbia un senso relativamente a quei progetti. Quindi per la natura morta, voglio dire, sono che è stata la una delle prime cose che sono uscite. Ho proposto anche delle foto che avevo fatto a Parigi al Museo Montparnasse, perché più morte di così non si poteva trovare, tutti i fiori secchi, cose perse sulle varie tombe, da Sartre alla Simone de Beauvoir, insomma. Dicevo che per quelli di voi che stanno morendo dalla curiosità di sapere di che cosa stiamo parlando, di vedere quelle cose di cui stiamo parlando, andate su pierluigivannozzi.com e trovate tutto. Non è aggiornatissimo, ma aggiornerò il sito in questi giorni. C'è scritto mostre 2019-2025, cioè non è aggiornatissimo, tipo non è aggiornatissimo a questa settimana. No, non è aggiornatissimo. Almeno a quest'anno lo è. Però si può vedere, tutto quello che ho raccontato si può vedere. Wow. Io l'ho trovato anche su Instagram. In alternativa lo pubblichiamo sul blog, perché Pasquini ha fatto un po' di foto. Ah, vedi? No, ho cliccato su Studio Visit e cancellato tutto. E ho visto delle ecco, manca lo Studio Visit che ha fatto Chiara con il nostro amico Giancarlo qualche giorno fa. Insieme a Daniela Spagnamus, che salutiamo. Sì. Mm-hmm. Io ho fatto delle foto, qualcuna l'ho portata, ma è stato interessante, credo. Per me sicuramente, perché per noi mi aspettavo domande. Infatti sono state fatte anche domande, poi però io parlo troppo, quindi come dire, vi ho ubriacati senza poter far vedere davvero tutto quello che era possibile. Sì, tant'è che quando siamo andati via io non ho neanche bevuto un drink, vabbè. Tant'è che la trasmissione sta quasi finendo. Tant'è che siamo alle 20:54. Sono le 20:54 e dobbiamo salutare. Siamo pieni di curiosità, vorrebbe un podcast. Ci vorrebbe un podcast di un'altra ora e mezza. Se abbiamo 500, vengo con degli altri 56, appunti, con degli altri appunti. Facciamo che torni il 5 gennaio. Esatto. Visto allora, che guarda, non abbiamo ospiti. Adesso noi qui dobbiamo tornare. Dobbiamo tornare. Che Luigi Vannozzi deve tornare insieme a già programmata questa cosa. Giancarlo Norese, che però sta zitto. Giancarlo Norese viene quando vuole. Con Alessandro Trapezio. Al quale io che faceva parte, che ha fatto parte del gruppo iFan, anche lui ci siamo. Ah, era del gruppo iFan. Allora così, io l'avevo invitato anche stasera, ma non so perché. Alessandro Jux. Volete fare carriera tutti? Non si può. Bellissimo. Non si può. Mamma mia. Detto questo, dobbiamo salutare. Anche perché Panta 80 sta scalpitando per entrare in questo studio. Menzioni non ne abbiamo. È 25 dicembre, è Natale. Esatto. Fate ci sono dei compleanni, però questa settimana vorrei dire io ero Chiara Pergola e naturalmente io ero Cinzia Corda, esatto. Io ero Stefano W. Pasquini, ma abbiamo il 23 perché dopo rimane scoperto. Beh, io ero lui era allora io ero Giulia Quadrazzi, tu eri Giulia Quadrazzi. Va bene, salutiamoci a questo punto, rimane la soluzione migliore. Io Chiara Pergola, non mi ricordo più, fa niente. Va bene, la chiudiamo lì. Il 23 c'è il compleanno del Gabriele De Angelis. Esatto. C'è il del nostro Pasquini. Il 24 chiediamo a Marco Roma di fare un augurio speciale. Il 24 Cinzia Corda. Ah, proprio. Esatto. Il 25 Gesù. Il 25 è una certa Simone. Ok, così. Abbiamo una conoscenza di Natale. Molto bene. Buon Natale. Buon Natale. Grazie al nostro ospite. Ascoltiamo la sigla. No, dicevo, abbiamo la sigla natalizia. Peccato che non abbiamo questa sera, perché dovevamo salutare Lisa. E allora abbiamo cambiato sigla. Sentite Lisa. Che sigla natalizia. Basta, finito lì. Ciao. Ok, that's it. Ever married per me. Suddenly by night, they will arrive. Can't you feel the typical clink, clink, clink, clink, clink? Presents for the good, cold for the bad. Proprio come diceva mia mamma. Peace